La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Oggi voglio raccontarvi la storia di Judith. Judith è una ragazzina ebrea che vive in una piccola città della Germania durante il nazismo e si è montata la testa con la Bibbia, come Don Chisciotte coi romanzi d'avventura. A forza di leggere storie di eroi e di profeti, Judith crede di essere uno di loro. E invece è soltanto una bambina di 12 anni, vive nella Germania nazista, è bruttina, alle orecchie ventola, il naso lungo, una specie di Woody Allen ragazzina, e agli occhiali molto graduati, perché legge il libro da quando aveva 5 anni. Su Judith pende una strana maledizione. Judith è condannata a salvarsi, con la sua piccola Bibbia in tasca. Proprio lei, che sogna di essere un eroe e vorrebbe sacrificarsi per salvare gli altri. E la storia di Judith viene da un mio libro, un romanzo che si chiama Dispetti divini. L'ho pubblicato nel 1989 con Marsilio ed è introvabile, salvo che a casa mia, dove ce n'è un mucchietto, oppure su eBay, che è il refugium lectorum che non delude quasi mai. Il dispetto divino, il dispetto che Dio le fa, è proprio quello. Judith sfiora i pericoli più tremendi, ma si salva sempre. Lo scrissi su un quaderno quadretti davanti al Gran Paradiso, questa bellissima montagna, e vi trovai una così perfetta infanzia che tornai a scrivere a mano. Il manoscritto era tutto istoriato di disegnini infantili. Ci deve essere ancora da qualche parte nelle mie segrete piene di fogli, che nessuno guarderà mai e saranno dispersi dopo la mia morte. Per Judith, essere ebrea era importante anche prima della persecuzione. A 5 anni ha imparato a leggere sulla Bibbia. E da allora si può dire che non abbia fatto altro. Legge e rilegge, mai sazia delle sacre avventure, e non conosce emozione che ciò stia a pari. Né divertimento o birbonata infantile poterono mai farsi preferire da lei alla lettura del libro. Tanto ha letto e tanto ha fatto che a 12 anni deve portare quegli occhialoni graduatissimi e già non è una bellezza. Quando legge, però, si sente bellissima. Si sente Saul, si sente David, e persino Sigmund Herder, il più antipatico dei suoi compagni di scuola, le fa pena perché è escluso dalla beatitudine. Lui è cattolico e a casa sua gli fanno leggere solo il Nuovo Testamento. Le storie della Bibbia le avevano fatto girare la testa come Don Chisciotte i romanzi di cavalleria, e a forza di leggere vicende di eroi si scambiava per uno di loro. Leggendo la Bibbia, favoreggiava e parteggiava apertamente per questo e per quello, tanto che il maestro trovava assai scorretto che il suo trasporto romanzesco per il testo sacro ed ebbe ad esclamare una volta: «I profeti non sono cowboys». A forza di leggere nella Bibbia tutto quello che ha detto e ha fatto, Judith è molto in confidenza con Dio. Ma non vuol dire che sia sempre d'accordo con lui. Anzi, Judith ha imparato dai profeti a chiedergli conto. Una cosa in particolare non le va giù. Perché non l'ha fatta nascere maschio? Doveva, proprio doveva, per come l'ha disegnata, col naso lungo e le orecchie a ventola, tentando invano di rimediare con gli occhi, di un azzurro dell'altro mondo. Ora, un maschio con questa faccia avrebbe una sua comicità commovente, da grande clown. Ma una ragazza? Speriamo, crescendo, che non le crescano anche il naso e le orecchie. Judith non si meravigliò quando l'antisemitismo incrudelì, quando la cacciarono da scuola e l'abbandonarono i compagni più cari. Nella sua vasta religiosità, non ancora disgiunta dai giochi infantili, un giorno, giocando con Sigmund Herder, aveva capito ad un tratto il perché del nazismo la sua vera ragione. Sigmund era invidioso di un suo giocattolo e dopo aver cercato invano di rubarglielo, alla fine gliel'aveva rotto. Così Hitler è invidioso di Dio. Gli ebrei ce l'hanno. Lui è il padrone della Germania. Bene, non può finire. Fiona, la gemella di Judith, legge molti romanzi di nascosto e, sapendo che dovranno rifugiarsi altrove, se ne procura tantissimi. Invece, Judith riduce il formato. Acquista una Bibbia tascabile per averla a portata di mano in qualsiasi momento. Sua madre sì che era bella. È ancora bella, non è morta. È solo in America, perciò se ne parla al passato. E Fiona, la gemella di Judith, è bellissima. Quando erano piccole, le guardavano insieme nella carrozzina, pesando su di loro, con le facce piene di confronti. A volte Judith coglie una grande compassione e quasi rimorso negli occhi di Fiona, perché un po' di ingiustizia va bene e qualsiasi sorella vorrebbe essere la più bella, ma così è troppo. Così è come nelle fiabe, una perle, l'altra rospi. Judith ha quasi un figlio, è quasi madre di suo fratello Hans, di 5 anni, da quando la madre se n'è andata. Si fa finta che sia semplicemente andata in America per via delle leggi antiebraiche, ma non è normale che una madre si metta in salvo lasciando 4 figli. Lei se n'è andata a New York perché amava un altro e ora si trova con lui. Judith ha immaginato tutta la scena, senza vedere niente, dietro il muro. Lei che salutava il marito e lui che debolmente la tratteneva, debolmente la rimproverava, debolmente assaporava che sarebbe stato compatito. Erano molto infelici. Meglio così. Judith sente che è un vuoto giusto, un vuoto di felicità. Intanto le ha lasciato il suo orchetto. Hans è un bambino enorme, con le mani grandi come i piedi. Ogni sera vuole da Judith la favola per dormire. Lei si arrampica al capezzale del bambino gigante in un gioco di cui non si stanca mai. Lui è il piccolo, lei la grande. Quel che per Judith è la Bibbia, per Fiona è il pianoforte e i romanzi. Fiona suona tutti i pezzi che suonava la mamma, cosicché non se ne sente acusticamente la mancanza. La piccola città dove vivono, T, è sempre stata un posto tranquillo e il nonno ottimista. Ci si sentiva protetto a casa e ha tardato a capire che il nazismo riguardava tutta la Germania, T compresa. E anche quando è stato chiaro ha detto: io non me ne vado, qui sono il dottor Kaufmann, da qualsiasi altra parte sarei l'ebreo Kaufmann. Ma ben presto anche a T è diventato l'ebreo Kaufmann. Il nonno ha dato notizia alla famiglia che presto ci sarebbe stato un trasferimento. Dove? Proibito chiedergli. Lui dice solo là. Non dando spiegazioni, chiede di chiudere gli occhi e affidarsi a lui. Là equivale a una silenziosa promessa del paradiso. Avvertito di stare pronti, non si sa quando dovranno andare. E il padre? Il padre di Judith è rimasto troppo il figlio del nonno per diventare padre dei suoi figli. Ma dopo la partenza della moglie si è sistemato anche questo. Ora Judith, Bert, Fiona e Hans sono diventati anche loro i figli del nonno. E ogni parentela in casa è andata a posto. Il nonno gli bada poco e lui bada molto a sé. Si trova imbruttito. Rimpiange le automobili. Judith ha chiesto al nonno: e cosa dobbiamo portare là? E il nonno ha risposto: solo quello che portereste sull'arca. Bella responsabilità. Fiona ha messo 6 romanzi nella cartella scolastica e mentre stava radunando gli spartiti ha chiesto al nonno: ma là ci sarà il pianoforte? Il nonno chiuse gli occhi senza rispondere, ma non fece in tempo a nascondere il brillio speciale della sorpresa, che lui è una fede, un palpito d'amore. La guardiana del faro. Stavo leggendo la storia di Judith, bambina ebrea nella Germania nazista. sa che tra poco lei e la sua famiglia saranno costretti a scappare dalla città dove è nata. Ma lei non ha tanta paura perché si fida del nonno. Grazie a lui, suo nipote Judith si sente come la donna che fa da bersaglio al lanciatore di coltelli. Finché c'è il nonno a difenderla, sa che tutti la sfioreranno senza colpirla. È stato il nonno a iniziare Judith alla lettura della Bibbia e Fiona alla musica. La loro era la casa più musicale di T. Sanno che devono scappare, ma finora a Judith è parso d'avere davanti, prima della partenza, un tempo infinito. Un infinito compreso tutto nel sorriso del nonno, che faceva sembrare il pericolo una burla. Come se d'un tratto non fosse vero, e si rimane a casa, e si ride. Invece d'un tratto arrivarono in subbuglio Kluge e Böll, i grandi amici cristiani del nonno, e scattò l'emergenza. Vola una parola bizzarramente giardiniera, rastrellamento. Oggi è un giorno di grande agitazione. Girano le S.A. in divisa e bastonano tutti. E questi sono due strani personaggi, Böll e Kluge. Si sono autonominati i protettori della famiglia. Però fanno gara a chi dà i particolari più raccapriccianti. Si farebbero ammazzare prima di consegnare i Kaufman, cioè Judith e la sua famiglia. Però li spaventano. A questo punto lei sa che bisognerà partire subito e deve fare una cosa molto importante prima di partire, perché anche lei, come Don Chisciotte, ha la sua Dulcinea. Ha un amore immaginario, un ispiratore segreto cui dedica ogni gesto e pensiero, il giovane matematico. Di lui sa benissimo il nome, ma non lo pronunzia, nemmeno quando è sola, ed evita di pensarlo. Joel, Joel, Joel, Joel. Le batte il cuore quando lo incontra, anche se lui non se ne è accorto. Finora non l'ha mai accostato, perché l'amore a distanza è una cosa di cui va matta, senza conseguenze, senza spiegazioni umane, puro fervore. Ora però l'emergenza cambia tutto. Prima di partire vuole parlargli per la prima volta. A questo punto lui deve sapere che lei esiste. Avrà pochi minuti per farsi amare, anche dopo il distacco, per sempre. E quindi corre alla casa, davanti alla casa di Joel, il giovane matematico, ma incontra gli orrendi fratelli Herder, che la acchiappano e con il pugno a molla, che si chiama Stahlruten, cercano di farle del male, cercano di picchiarla. E a questo punto lei fa resistenza, loro cercano di fare scattare il pugno a molla e a quel punto Judith grida: «Fermo! Un angelo protegge ogni capello della mia testa!» Che però non veniva dalla Bibbia, ma dalla recita scolastica su Giovanna d'Arco. Judith attinge a malincuore alla tradizione cattolica la frase che doveva salvarla. E riesce però a scappare, a salvarsi, però non riesce a incontrare Joel. Torna a casa e ha una bruttissima notizia. Apprende che non sarebbero andati subito là, nel nascondiglio preparato dal nonno. C'era un imprevisto. Controllano i veicoli che escono da T. Bisogna aspettare un momento più tranquillo. E non si poteva nemmeno restare in casa. Qualcuno li avrebbe nascosti in città. Amici cristiani, i signori Staubingen. Lei e i suoi fratellini vanno da questi signori, in attesa che il nonno li venga a prendere. Ed eccoli nella tana di un altro lupo. E Judith voleva essere grata ai signori Staubingen, però li trovava antipaticissimi. C'era il pianoforte, ma non si poteva toccarlo come tutto il resto. I due Staubingen erano solenni e futili come i loro mobili. E mettono una gran paura ai bambini perché stanno sempre a controllare la finestra, a vedere se arrivano la polizia e il nonno. Judith sogna una possibilità di fuga. Uscire, fare liberamente il verso di due ippopotami cristiani. E il nonno? Nemmeno la Bibbia mi consola, formula chiaramente Judith nel pensiero, senza mangiarsi le parole, perché Dio la senta. Bisognava stare zitti come topi, per non essere notati da quelli di fuori e da quelli di dentro, ma nonostante la privazione del pianoforte, lei e sua sorella suonavano e cantavano lo stesso. Lo spartito davanti, seguendolo col dito, cantavano mente, restando mute, e suonavano sul bordo del tavolo, a quattro mani. Judith disprezza quei due gaglioffi decorosi e preferirebbe un grugno di nazista a quello della signora Staubingen. Non si può aiutare offendendo. O si aiuta o no. Un aiuto così è un po' parente del tradimento. Quando parla di sé, il signor Staubingen si intenerisce, sorride e pare una vecchina buona. Ma se il suo sguardo si posa sui piccoli Kaufman, diviene di una malinconia feroce. Non odia loro, odia la loro sventura, insomma, odia. E loro ascoltano questi frammenti di discorsi, la signora Staubingen. E se non vengono più il padre e il nonno, e se li prendono, io non voglio essere fucilata per loro. Sei tu che hai detto di sì, io non volevo. Buoni cristiani, dovere. Un buon cristiano li consegnerebbe. Mica se l'ho inventato Hitler, hanno ammazzato Cristo. Chi ha ammazzato Cristo? Mormorava il piccolo Hans. Ma è vero, Judith. Finché una sera, finalmente, arriva il nonno e se li porta via. Arrivò bello, con un tabarro militare. Disse: pronti? Vi porto là. Il nonno, come il grande Moln, li portò via sotto il mantello nella stellatissima notte. Li fece salire su un furgoncino del latte. Guidava Kurt, che è un altro personaggio importante del libro, è un orco enorme, buonissimo, il protettore della famiglia. Ed eccoli, arrivano in questo posto. Arrivano in aperta campagna. Il nonno dice: chiudete gli occhi, li fa camminare nell'erba e poi dice: apriteli. Li aprirono e non videro niente. Dov'era la casa? Sotto il cielo nero si scorgevano solo fitti alberi. Ma ci hai portato a vivere nel bosco, nonno? Ed un tratto si aprì davanti a loro lo spiazzo meraviglioso e la casa bianca al centro di una piccola valle. Non è visibile dalla strada, disse il nonno. Nessuno la può trovare se non sa che c'è. Le aiole erano colme di rose. L'uva pendeva nella vigna. Là era il paradiso terrestre. Ognuno aveva la sua stanza e nella stanza ciò che gli avrebbe fatto piacere. Da chissà quanto il nonno, come un vecchio uccello, faceva il nido. E c'era il pianoforte. Si sciolsero i canti. E chi sarà l'ortolano del paradiso, l'angelo con la zappa e la spada? Kurt. I piccoli Kaufman hanno sempre desiderato che quel tondo sorriso con le fossette, quella testa mezza pelata, si fermasse come una luna sulla loro tavola e sui loro letti. Ora Kurt è il loro, vive con loro, nella casa di fronte. Sarà guardiano, cuoco, musicante. Solo vuole il sabato libero per andare a ballare, perché lui senza donne non resiste. La sorpresa più straordinaria riguardava Judith. Anche lì c'era la Bibbia, come quella di casa, con un leggio ancora più bello, posto davanti alla finestra. Però sembra il paradiso terrestre, ma in verità intorno continua la guerra, continua l'orrore, e il nonno e Kurt, la sera di nascosto, ascoltano Radio Londra. Come faceva a casa, Judith legge il libro sacro e si sente eletta. Immagina che se venissero a prenderli, lei morirebbe per tutti. Sa che il suo destino è salvare gli altri. Con l'aiuto di quella buona aria, più sta bene, più si sente eletta. E ha trovato un modo per passeggiare liberamente nella città. Scrive un diario e attraverso il diario lei passeggia. E passeggiando un giorno si accorge che la penna si impunta e, senza volerlo, scrive che il giovane matematico è in pericolo. Lo vede proprio. I soldati bussano. Con un colpo di pistola sfondano la serratura della sua casa, entrano e, piangendo, Judith guarda la propria mano che scrive tutte queste disgrazie e non può fermarla. Ingaggia una lotta con la penna e capisce in pieno, solo allora, Giacobbe, la sua lotta con l'angelo, e capisce la forza dell'angelo, la forza del reale, che vuole che lui sia caricato sul camion. E allora, lottando con la penna che fa resistenza, lei riesce a scrivere: ma Joel si salva. E poi cade svenuta. Tanto grande è stato lo sforzo. Quella sera il nonno tornò dalla caccia senza conigli. Lui e Kurt portavano, svenuto, un uomo. Lo adagiano nel salotto, lei lo guarda e con un batticuore forsennato si accorge che è Joel, è il giovane matematico. Il nonno glielo ha portato. Il ragazzo ha gli occhi chiusi ancora, è ancora svenuto, ma fra poco li riaprirà. Purché non veda Fiona per prima, la sua sorella bellissima, si innamorerebbe subito. Ma se vede me, anche peggio. L'unica è conoscerlo al buio, fargli sentire la mia voce, farmi immaginare splendente. E dopo, quando è già cotto, che mi veda pure. Se metto la sua immaginazione nel sacco, ci metto anche il cuore. È scientifico, vanno insieme. Quando Joel rinviene, lei era già pronta con la Bibbia e subito chiede: «Vuole che le legga qualcosa?» Ma lui si mise a piangere. Judith mormorò, fissandolo: «Meno male che non vuole. La Bibbia io la leggo sempre da sola. Ma è un altro conto pronunziare le parole. Non l'ho mai fatto. E mi sembrerebbe di dare un morso a una bomba!» Joel pianse più forte. «Avrei paura che scoppiasse la stanza. E lei. E io.» E lui piangeva. Piangeva. La guardiana del faro. Judith, bambina ebrea nella Germania nazista, appassionata lettrice della Bibbia, a causa delle persecuzioni si è rifugiata in campagna, in una bellissima casa preparata dal nonno con i suoi familiari, e ha avuto una grande gioia. Joel, il ragazzo che ama in segreto, è venuto a rifugiarsi proprio a casa loro. Finalmente può guardarlo da vicino. È più bello che da lontano. Di solito Judith non pregava, sapendo che Dio è sordo. Però glielo disse nel pensiero chiaro: «Desidero che Joel rimanga». È notte. Judith non dorme. Pensa: «La felicità è finita. Finché era lontano, era mio. Pensa: siamo salvi, ma io sono perduta». Preferirebbe trovarsi in pericolo, in grave pericolo, ma amata da Joel. E infatti Joel si alza, conosce Fiona e si guardano. Mentre i vecchi parlano, i loro sguardi non stanno zitti un momento. Judith si toglie gli occhiali per non vedere. Arrivano intanto gli amici cristiani, Böll e Kluge, sempre ricchi di episodi terrificanti di ebrei uccisi, spaventando i loro protetti. E Böll dice: «Basta, mi converto, subito dopo la guerra mi faccio ebreo», e studia l'effetto sugli astanti. «È un'idea», dice Judith e si ferma. «Di!» la incoraggia Böll, che si aspetta un complimento. «È un'idea veramente pacchiana», completa Judith. E intanto Judith continua ad assistere esterrefatta e addolorata all'amore che sta sbocciando tra la sua bella sorella Fiona e Joel. Fiona e Joel non si guardano più. È peggio. Vuol dire che si pensano. Judith sogna intensamente che ora, subito, vengano i nazisti per sacrificarsi esibizionisticamente ed essere ricordata da loro due per sempre. Invano, tutto è tranquillo. Judith sogna il martirio per ottenere l'amore. Altro modo, francamente, non vede. Finché un giorno riesce a fare un bellissimo discorso sulla Bibbia a Joel, che la guarda ammirato, che trova la sua visione della Bibbia temeraria, riesce veramente a interessarlo, ma in quel momento entrò Fiona col suo vestito nuovo e tutto fu perduto. C'è un episodio grave. Kurt, fedelissimo, coraggioso, però per una storia di donne, viene snidato lì da un fanatico nazista. E allora come si fa? Tutti si nascondono, ma il pericolo comincia a essere molto grave. Non è più prudente stare lì soltanto i clandestini. E così il loro amico cristiano Böll viene ad abitare lì con sua madre. Si trasferiscono. La madre del signor Böll, la signora Böll, è una donnina di 60 anni che si sente ancora la più bella. È un po' gelosa di Fiona e tutto sommato vorrebbe essere lei guardata da Joel. E circa le impalpabili e palesi manovre della vecchia, perché Joel le faccia da cavaliere servente, Judith è gelosa due volte, per sé e per Fiona. Con la scusa che ha portato poche cose, la madre di Böll saccheggia il guardaroba di Fiona, si mette i suoi vestiti e si veste come una ragazzina di 13 anni. Si accorge che Joel ride di lei, con Fiona, fa la buona nonna, ma vorrebbe ucciderli tutti. Judith, un giorno, viene a sapere che Joel e Fiona si sono baciati e lo viene a sapere dalla signora Beul, che fa uno scandalo. Li ha visti, erano il gazebo. Il nonno naturalmente la prende a ridere, però succede un fatto molto grave, ovvero sia per una storia di donne Kurt si è messo nei pasticci e il fratello della ragazza viene a cercarlo. Il fratello della ragazza è un fanatico nazista. Tutti si nascondono quando arriva e allora la signora Beul, come una regina, si fa trovare nel gazebo e dice: «Quale Kurt? Qui non c'è nessun Kurt. Questa è casa mia». Bene, da quel momento la signora Beul ha vinto la guerra. Lei è diventata la padrona di casa. Si prende la stanza più bella, requisisce il guardaroba di Fiona e nessuno osa dirle niente, perché in fondo la loro vita dipende da lei. Ed ecco che nella zona all'improvviso comincia a esserci un bel traffico d'aerei e anche il botto di una bomba. A quel fragore sinistro, la signora Beul, invece di spaventarsi, andò su dai Kaufman con aria di trionfo, esclamando: «Avete sentito?» Come si dice ai bambini: «Voi fate i cattivi, ma sentite l'orco?» «Hanno paura per noi», diceva il nonno. «Sono persone tanto per bene». «Ma cosa vuol dire chiese Hans? Cosa vuol dire veramente per bene?» «Che sono come i nazisti, ma in punta di forchetta», rispose Judith. La situazione in casa è intollerabile. I due cristiani protettori cominciano a diventare dei ricattatori. Scusandosene molto, a un certo punto, il signor Beul chiede in prestito una bella cifra al nonno e, più che un prestito, sembra un ricatto. Judith capisce che il nonno non si fida più di Beul, il quale è diventato untuoso e sempre un po' colpevole. Un giorno, mentre il nonno dorme, il signor Beul chiede a Fiona di aiutarlo a riordinare le sue carte e lei lo fa volentieri, sta via parecchio. Joel è nervoso. Quando torna, Fiona fissa Judith con invidia appassionata. «Beata te, che sei brutta!» Ed ecco un altro tradimento, come mille descritti dalla Bibbia. Qualcuno ha fatto la spia. Beul, facendo il preoccupato, dice al nonno: «Se volete, io ho il modo di farvi andare in Svizzera». E chiede una cifra assolutamente esagerata. Il nonno lo ascolta e gli offre il doppio. E Beul rimane stordito. Porta via la madre e promette che tornerà il giorno dopo col mezzo di trasporto. Il nonno raduna tutti i bambini e dice: «Dobbiamo partire. Io sto cercando di portarvi dallo zio Wilhelm ad Amburgo. Fra 9 giorni si imbarcherà e noi partiremo con lui su una nave per l'America, se Dio vorrà». «Ci mancherebbe che non volesse», pensa Judith. Il nonno fece imparare a tutti a memoria l'indirizzo del zio Wilhelm. Partono su questa jeep sotto le stelle e poco dopo che sono partiti, li fermano. Kurt, che è al volante, finge di frenare, poi accelera tentando la fuga. Una raffica di mitra. Il furgone gira su se stesso. Da fuori aprono la portiera. Soldati. Li tirano fuori. Una canna di fucile divide Joel da Fiona. Poco lontano, una macchina coi fari accesi. Quello dietro cercava di stare in ombra. Ma Judith lo vide. Era il signor Beul. Poi, sopra la scarpata ci fu uno sbalzo repentino e Judith viene proiettata fuori e rotola giù, non sente niente più. Il fatto che accadde a Judith era molto spiegabile, difatti lo abbiamo spiegato. Ma lei parve sentire, chiara come certi suoi pensieri, la manona di Dio, grandissima, che la sollevava dal veicolo e la sosteneva dolcemente mentre cadeva nel dirupo. E la faceva anche cadere contro un sasso, ma piano, come a dire: «Dormi», per un disegno al solito incomprensibile, separandola dal destino dei suoi, nel modo opposto a come lei aveva sempre voluto, salvandola. Si sveglia dallo stordimento, vide di nuovo il mondo, era sola, senza documenti, senza soldi, senza nonno, a 13 anni, inseguita dai nazisti, con una piccola Bibbia, di cui non sa più cosa fare. Così si avvia verso Amburgo, ignorando in che direzione si trovi. Questo zio Wilhelm, dal quale è diretta, non l'ha mai visto. L'ha visto solo in una foto di festa, mascherato da coniglio, con delle lunghe orecchie bianche. Cammina, cammina, cammina e pensa, stupido lo scherzo del signore, salvarla per riprecipitarla nella gola del lupo. proprio al centro, perché gira e si ritrova nella sua città. Viene riconosciuta come Judith Kaufman, ebrea latitante, e viene catturata dalla polizia. La interrogano, come hai fatto a scappare, chi ti ha aiutato? Lei sta zitta, e allora questo funzionario si mette a gridare: i nomi, voglio i nomi! E lei, malvolentieri, parla: Isaia, Ezechiele, Geremia, Daniele, Osea, Samuele, Tobia, Baruch, bastano? E appena capisce, con qualche secondo di ritardo, il poliziotto fa per darle uno schiaffo terribile, alza questa mano come se prendesse le misure per spaccarla in due. Lei la vede arrivare, tesa, più a ghigliottina che a schiaffo. In quel momento un boato tremendo: stanno bombardando la città. Tutti corsero fuori, anche lei. Una granata centrò la fontana, proprio lì davanti. Al funzionario saltò via la testa. La vide rotolare ai suoi piedi. Judith staccò dal muro una cartina della Germania. Come nella Bibbia, sentì la città di T sprofondare alle sue spalle. In un boschetto apre la carta geografica e finalmente capisce dov'è Amburgo, e capì anche che non ce l'avrebbe mai fatta in 9 giorni. Stavolta Dio le ha dato soddisfazione. Ha steso la mano sul suo nemico mentre stava per colpirla, via, da gusto. Anche se buttarti giù nel fondo per poi tirartene fuori è un miracolo ozioso, è come fare il bagno al gatto. Ebbe tanta fame che rubò in situazioni di massimo pericolo perfino un bivacco di soldati nazisti addormentati che non la videro. Nell'esaltazione della fame si figurò di essere invisibile. Invece era solo molto piccola. Le disgrazie la puntano, la sfiorano, ma senza colpirla. Niente la tocca, col suo piccolo libro in tasca. Finché c'è quello, c'è anche Judith. La guardiana del faro. Judith, bambina ebrea nella Germania nazista, sta scappando, cercando di raggiungere Amburgo dallo zio Wilhelm. Riesce a prendere al volo un treno merci. Si accomoda sui sacchi e legge il libro di Giobbe. E a questo punto però, mentre lei scende dal treno tutta contenta perché si è rafforzata con la lettura del libro di Giobbe, le tocca una sventura grandissima, l'unica alla quale non si è preparata. Judith ha perso gli occhiali. Finora non ha avuto bisogno degli altri. Adesso ha bisogno degli altri, non solo per leggere la Bibbia, ma anche segnali stradali. Judith è diventata vulnerabile. Judith è diventata visibile, Judith è diventata mortale. E a questo punto, mentre sta sola, affamata, piangente in mezzo alla strada, ecco un buon samaritano. Si ferma un signore. Ma dove vai, bambina, a quest'ora? Ma non hai da dormire? No, te lo do io un lettino stanotte. Quante creature disperse, quanti fanciulli senza tetto. Lei ha capito subito che sta parlando con uno sporcaccione. Da come ha strascinato la I di lettino, ha visto le sue intenzioni nella voce, come sul quadernetto. Uno sporcaccione e un finto buono, ma sfida Dio, vuol proprio vedere dove arriva. E poi fa un freddo, il vento è come una frusta, e che fame. Lo sporcaccione le riempie le mani di caramelle. Judith si abbuffò di dolciumi a casa dello sconosciuto, e quando quello cominciò le sue manovre gli disse: «Senta, sporcaccione, faccia quello che vuole, abusi pure di me, tanto sono alta un soldo di cacio e nessuno mi difende. Anzi, sono perfino ebrea, il che la rende impunito e quasi benemerito». Lui si tolse la cinghia. «Voglio giocare al bambino punito. Zitta o ti ammazzo». Lei non oppose resistenza, ma continuò a parlare. Faccia pure, con comodo. Nessuno ci disturberà, ma sappia che in questo momento Dio ci vede. Anzi, sappia che Dio è qui». A tali parole, lo sporcaccione vinto scoppiò in lacrime e, piangendo commosso, frustò Judith e, sempre piangendo, consumò su di lei gli atti di libidine che aveva concertato portandola a casa. Quando finalmente ebbe smesso di piangere e di abusare, la cacciò via nella notte, rubandole la sciarpetta. Judith non batté ciglio. Poi però, quando si trovò in strada, ancora morta di freddo, dolorante per le sevizie del maniaco, paonazze di cinghiate, levò a Dio questa preghiera. «Ma va a giocare col tuo compare Satana, che come te è un patito di scommesse!» «Io no. Gioca con lui, che ti fa vincere. Gioca coi generali, per abbatterli nella polvere. Ma io, signore, raccontavo le fiabe a mio fratello. E poi fai sempre le stesse cose. Mossa, contromossa, ti do l'ultima possibilità. Ridammi quelli che amo. Semplice. Mi giro e ci sono.» Si girò. Niente, lo sapevo. Di fare i miracoli era capace solo il nonno. O almeno, ridammi gli occhiali. Si fermò e attese. Fa un gesto di rabbia e la sua mano incontra una bicicletta. Incontra una ruota, tasta. E allora parte, senza vedere niente, parte al volo su questa bicicletta, si ammazza un'oca, si porta dietro delle frasche e va e corre finché la bicicletta si schianta contro un albero, prosegue a piedi. Era l'ottavo giorno. L'indomani lo zio Wilhelm avrebbe lasciato Amburgo per sempre. Mai arriverà ad Amburgo, mai troverà lo zio. Invece, la mattina del nono giorno, la città le sorse davanti. Quella ci arrivava a vederla. Ma come farà a trovarlo? E questo cigolio? Un carro armato? È il carrettino dei gelati. Il gelataio gridava: «I migliori gelati della Traumstrasse! La strada dello zio! Eccola, è arrivata!» E così trova subito lo zio. Zio Wilhelm sembra ancora vestito da coniglio, soave e timido come in quella foto di carnevale. È identico a Judith ed entrambi sono identici a Woody Allen. Più che a casa, con lui Judith si sentì allo specchio. E stanno per andar via, però lui dice: «C'è una sola cosa che mi dispiace lasciare ed è la finestra di fronte, perché lì c'è la donna che lui ama in segreto». E lei gli dice: «Dai, andiamo zio, è ora, dobbiamo prendere la nave». Ma lui continua a guardare la finestra e dice: «Ma io devo salutare una persona». Intanto le regala una fionda, perché dice: «Questa me l'ha regalata il nonno». E in quel momento Annette, la sua vicina, bussa alla porta e dice: «Anche lei ama lo zio Wilhelm». E gli dice: «No, io voglio fuggire con te, andiamo via». E lui dice: «Ma no, non devi sacrificarti per me». E lei dice: «Guarda, è inutile, perché se arrivano i nazisti, io dico che sono io che ti ho procurato il passaggio in America, dico che sono la puttana di un ebreo. Almeno sarà vero per qualcuno». In quel momento però il marito si è accorto che la moglie è andata da zio Wilhelm e sta chiamando la polizia. Il signor Butz si avvicina al telefono. Ci deve essere un modo per fermarlo. C'è la fionda che le ha dato lo zio e in tasca il sasso che ha raccolto sui binari. Il signor Butz ha già il telefono in mano. Judith tende la fionda. «Zio, tu che hai gli occhiali, dirigimi il braccio, fammi da mira». «No, non mi farò mai costringere alla violenza». «Io sì», disse Judith. Il signor Butz stacca la cornetta. «Signora Butz, mi aiuti lei?» «È mio marito, non posso». «Ah, non posso». «Farò da sola. Allora, mi dica almeno, la finestra è aperta?» «Oh, signore, Davide almeno aveva gli occhiali». Judith tirò. Il signor Butz cadde colpito sul tappeto. Zio Wilhelm è sterrefatto. «Dio, e sei morto? Oh, beh, pazienza! Via, via ora!» E finalmente prendono la nave. Arrivano a New York ed eccoli salvi, lei e lo zio Wilhelm. Alla fine della guerra le lacrime di Judith sono diverse da tutti. E una volta in America lei tutti i giorni ascolta alla radio gli elenchi degli ebrei che sono arrivati in America per riunirsi alle famiglie e i suoi non ci sono mai. Lo zio le ha preso le lenti a contatto e lei se le deve togliere per piangere liberamente. È chiaro il suo destino, Judith è condannata a salvarsi. È autunno, è mattina. Judith capisce il senso delle parole «mai più». Se amare Dio vuol dire essere in guerra con Lui, ogni minuto, allora sente montare la bestemmia, la grande bestemmia. L'unico modo per dimostrare il disprezzo a Dio è uccidersi. L'unico modo per rifiutare il patto. Si asciuga gli occhi, fa per rimettersi le lenti, ma le urta e cadono. Si butta a terra a cercarle. Non riesce nemmeno a distinguere la mano che tasta il pavimento. Crack! Le ha pestate. Con meraviglia e paura vede perfettamente i piccoli vetri frantumati. E la finestra, il muso della radio. Per la prima volta Judith vede. Vede l'autunno americano la vampa delle rose vermiglie e il cielo puro. Sommesso e beffardo, il miracolo. Dio le ha fatto l'ultimo dispetto, le ha ridato la vista. Judith guarda l'autunno e invece della bestemmia, dalle labbra, le sgorga una poesia. Mondo, non ti so stringere a me quanto vorrei. I tuoi venti, i tuoi vasti cieli grigi, le tue nebbie che fluttuano e salgono, i tuoi boschi che si dolgono e declinano e quasi gridano di colore, quella squallida rupe stritolare, sollevare quel promontorio nero ov'è più sottile. Sapevo da tempo essere in tutto questo un grande splendore, ma non conobbi mai l'eguale. Qui è tanta passione che mi lacera in due. Signore, io temo che tu abbia fatto il mondo troppo bello quest'anno. Capitaneria di Porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.